E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia. Le 17:07, 42 secondi, buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. È una puntata nella quale naturalmente parleremo di un tema che ha dominato anche i nostri giornali radio, ossia le previsioni del centro studi di Confindustria, che sono delle previsioni in realtà piuttosto negative per quanto riguarda il nostro paese. Parleremo anche e naturalmente ancora della situazione europea. Ci occuperemo in particolare oggi della situazione del mercato obbligazionario, perché dopo l'asta di ieri portoghese, della quale vi abbiamo parlato, che è stata un'asta difficile con i rendimenti in forte rialzo, oggi è toccato alla Spagna, circa 800 punti base in più per quanto riguarda il collocamento delle obbligazioni spagnole. Sono stati collocati 2,4 miliardi di euro contro i 3 offerti, quindi la Spagna, nonostante i rendimenti al rialzo, non è nemmeno riuscita a venderli tutti. Vedremo che quali prospettive ci sono su questo fronte. E poi parleremo di abusivismo edilizio. Oggi è stata presentata una ricerca interessante che riguarda in particolare la Regione Lazio, però naturalmente allargheremo il discorso un po' a tutte le regioni. Pensate, nella Regione Lazio, che su questo fronte maglia nera, così come Campania e Calabria, si sono registrati negli ultimi anni una media di 6,4 abusi al giorno, festivi compresi. Di tutto questo parleremo. Nel frattempo i mercati non sono particolarmente brillanti, ma il meno brillante di tutti è quello di Milano. Il FTSE MIB cede lo 0,7%, il FTSE All Share lo 0,66%, trainati al ribasso dalle performance dei bancari complessivamente, anche dall'andamento dei generali, un meno 2,86% in questo momento. E l'euro che quota 1,31,95 contro dollaro. Le notizie in breve di questa giornata. Naturalmente in questo quadro Wall Street è in perfetto pareggio o quasi. Il Dow Jones guadagna lo 0,01%, il Nasdaq lo 0,32%. Per quanto riguarda invece il mercato del petrolio, aperto in calo, 88,19 dollari al barile in America. Per quanto riguarda invece l'oro, è salito a 1383,88 dollari l'oncia. Eppure, l'andamento di Wall Street ve l'abbiamo detto, eppure i dati che sono arrivati oggi sono tutt'altro che negativi per l'America, perché le richieste di sussidio di disoccupazione la scorsa settimana sono scese a sorpresa a 420.000 unità, 3.000 in meno rispetto alla settimana precedente. E poi l'indice calcolato dalla Fed di Filadelfia, che serve a monitorare l'attività del settore manifatturiero in quel distretto industriale, è salito a dicembre a 24,3 punti, toccando i massimi dall'aprile 2005, mentre gli analisti avevano stimato un calo a quota 15. E ancora, il deficit delle partite correnti negli Stati Uniti è salito a 127,2 miliardi di dollari, e forse è a questo che sta guardando il mercato, superando i 126 miliardi previsti. Si tratta del livello più alto da 2 anni a questa parte. L'altra grande potenza economica del pianeta, per l'altra grande potenza economica del pianeta invece ci sono buone notizie, perché Standard & Poor's ha alzato il suo rating sul credito sovrano della Cina a lungo termine ad A- da A+, motivando la sua decisione con le prospettive economiche del paese, e ci voleva poco francamente, e con la sua stabilità finanziaria. E veniamo alle note veramente dolenti, che sono quelle che riguardano la Spagna, che ha collocato titoli di Stato a 10 e 15 anni per 2,4 miliardi di euro, come si diceva, un ammontare inferiore al tetto massimo di 3 miliardi inizialmente prefissato dalla Banca di Spagna. Ebbene, i tassi di interesse sul debito spagnolo hanno raggiunto i livelli più alti dal 1997. All'indomani, tra l'altro, ve l'abbiamo raccontato della minaccia venuta da Moody's di un nuovo declassamento del rating spagnolo. Quindi, per i titoli decennali il rendimento medio è salito a 5,446% dal 4,615% dell'ultima asta del 18 novembre. Sui 15 anni è balzato al 5,953% dal 4,541% dell'asta del 21 ottobre. Ci sono dati anche dall'Irlanda. Il PIL nel terzo trimestre ha segnato un rialzo dello 0,5% dopo il meno 1 del secondo trimestre. Rispetto al terzo trimestre del 2009, il PIL invece risulta in calo dello 0,5% dopo il meno 1,8% precedente. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, restiamo dunque in Europa, e degli interventi che sta facendo la BCE per cercare di arginare i problemi finanziari del continente. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare il capitale dell'istituto di 5 miliardi, portandolo a 10,76 miliardi, con effetto a partire dal 29 dicembre. La BCE cita l'aumentata volatilità del rischio di credito, così come dei tassi, dei cambi e dei prezzi dell'oro. Aumento di capitale che ha un impatto naturalmente anche sull'Italia, quello deciso dalla Banca Centrale Europea per la competenza della Banca d'Italia pari a 624,830 milioni. Tra l'altro, oggi si apre il vertice europeo a Bruxelles. I leader dei 27 sono chiamati a dare il via al meccanismo permanente salva stati, che entrerà in vigore nel 2013, e individuare le modifiche da apportare al trattato di Lisbona. Interviene Angela Merkel, dice: faremo tutto il possibile perché l'euro rimanga forte, abbiamo scelto l'Europa e l'euro, questa decisione era e rimane giusta. Nel frattempo cerca di rassicurare i suoi colleghi europei e anche il mercato il premier belga Yves Leterme, che dice: la questione di eventuali aiuti finanziari al Belgio non è all'ordine del giorno. Per quanto riguarda notizie che sempre arrivano da Bruxelles, un'altra notizia interessante che riguarda in particolare le nostre banche, perché il commissario al mercato interno e ai servizi finanziari, Barnier, ha detto che i conti correnti costano troppo in alcuni paesi dell'Europa e in particolare in Italia rispetto agli altri stati membri. Ha spiegato che l'utente italiano paga per il proprio conto corrente in media 246 euro l'anno, mentre un correntista olandese ne paga 43. E quindi ha detto che sarà condotta una indagine su questo in cooperazione con il commissario ai consumatori. A proposito di banche, ci sono delle indicazioni, o più che altro delle stime, che arrivano per quel che riguarda Basilea 3, ossia le nuove norme che riguardano la capitalizzazione delle banche. Se fosse stata applicata immediatamente, invece che con la gradualità prevista dal 2013 al 2018, Basilea 3 avrebbe avuto un impatto di 600 miliardi di euro sulle banche del G20 e, venendo a noi, avrebbe avuto un impatto sulle banche italiane, un fabbisogno di capitale da 40 miliardi di euro a fine giugno 2010. E per fortuna che non è entrata in vigore subito. Tra l'altro, il capo del servizio normativa e politiche di vigilanza della Banca d'Italia, Andrea Enria, dice che le piccole banche italiane sono meglio posizionate, mentre il direttore generale di Banca Italia, Fabrizio Saccomanni, dice che le banche italiane sono solide. Veniamo più specificatamente all'Italia. I dati sull'inflazione: l'Istat ha confermato a novembre stabile all'1,7%. Per quanto riguarda gli aumenti dei singoli settori, si registra un più 6,1% sulla benzina e un più 10% sul gasolio, naturalmente su base annua. Per quanto riguarda invece, restando adesso parlando di aziende italiane, in corso a Milano il CDA di Alitalia, pianificato da tempo, periodico aggiornamento sull'andamento dell'azienda, si è tornato a parlare della possibilità fusione con Air France, una fusione smentita, nessun matrimonio, fiducia nel futuro, dice il numero uno di Air France Spinetta. Alla domanda fatta al presidente di Alitalia, Roberto Colaninno, se avrebbero parlato della fusione, ha detto no, parliamo di panettone. E poi Roberto Colaninno, in un incontro avvenuto questa mattina in occasione della presentazione del 44esimo rapporto Censis, ha parlato anche di quel che discute il mondo economico in questo periodo, ossia le scelte e le parole dell'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne in merito ai contratti. Ebbene, dice Colaninno, io sono come lui, non mollo l'Italia, ascoltiamolo. Io credo che Marchionne, come amministratore delegato della Fiat, stia facendo un'operazione per i suoi azionisti straordinaria. Si è accolto una opportunità straordinaria, quella della Chrysler, sta gestendo un'operazione molto difficile, e quindi io devo riconoscere che le difficoltà che dovrà risolvere saranno importanti. A livello personale, se non vorrei, penso io solo come Marchionne, adesso non so, non vorrei pensare che poi lui, così che io mi sento di meno di lui, ecco, per carità. Ecco, però io c'ho un qualcosa, che io non mollo l'Italia. Cioè quello che faccio, principalmente lo faccio per un... perché ognuno di noi ha una bandiera, perché se togliamo, io dicevo prima a un professore che i simboli hanno ancora un valore fondamentale, però se mi si toglie la bandiera, che faccio il mercenario con chi? Allora c'è una bandiera e poi posso essere come Marchionne, ma per quella bandiera però. Questo dunque Roberto Colaninno. Noi veniamo al primo tema di questa giornata, ossia il rapporto d'autunno del Centro Studi di Confindustria. Nuove stime peggiorative sulle prospettive di crescita dell'Italia, un più 1% nel 2010, un più 1,1 nel 2011. Per gli economisti via dell'astronomia in Italia, la malattia della lenta crescita non è mai stata vinta. È un tema sul quale Confindustria, e non solo Confindustria, insomma ci sono parecchie forze, anche politiche e sociali, sul quale si sta insistendo spesso. Noi parliamo un po' di questi numeri, li commentiamo con Luca Paolazzi, che è direttore del Centro Studi di Confindustria. Buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, come mai questo abbassamento delle stime? Da cosa dipende? Quali sono i fattori? Sarebbe bello saperlo, voglio dire, questa più che una nuova previsione è una nuova constatazione. L'Italia ha chiuso il 2010 fondamentalmente in stagnazione. Il rallentamento che si è profilato durante l'estate a livello globale ha interessato in modo maggiore, in misura più consistente, il nostro paese. La crescita nel terzo trimestre è stata di uno 0,3 contro uno 0,4 abbondante nell'area dell'euro e numeri ancora più elevati negli Stati Uniti e nelle economie emergenti. Nel quarto trimestre la produzione industriale segna un segno meno di variazione sul terzo, e quindi anche il PIL probabilmente non farà molto di più, uno 0,1-0,2. Noi speriamo e contiamo che questa dinamica acceleri un po' nel corso dell'anno prossimo e ci riporti a un aumento grosso modo in media d'anno dell'1,1 a causa di un trascinamento più basso, e poi nel 2012 intorno all'1,3%. La revisione all'ingiù dipende quindi da appunto aver verificato che la crescita italiana quest'anno è stata più bassa di quel che noi stessi stimavamo e speravamo. Ricordo che avevamo messo un 1,2 solo un paio di mesi fa, per quest'anno e a giugno un 1,6 per l'anno prossimo contro l'1,1 che indichiamo adesso. Oltre a questo va detto che invece continua a premere le rilevanti perdite di competitività che il nostro paese ha registrato prima della crisi e che ha visto accentuarsi durante la crisi. La crisi ha risottolineato come noi abbiamo un problema di bassa crescita, viviamo una malattia di bassa crescita. Il biennio 2005-2007 ci aveva visto migliorare la nostra dinamica, la dinamica della produttività, la dinamica del PIL. Contavamo sul fatto che questo miglioramento fosse strutturale, quindi si ripresentasse durante la ripresa e facesse ripartire l'economia italiana più velocemente, come è successo per esempio con la Germania, o nella Germania viceversa dobbiamo purtroppo registrare che ciò non accade e quindi cambiare i numeri. Ecco, sul fronte delle dinamiche che vedete voi, export piuttosto che consumi, insomma, quindi il problema è complessivo, cioè non ravvisate segnali positivi, perché ci sono altri economisti che dicono, insomma, qualche segnale di ripartenza si sente per l'industria italiana, anche e soprattutto proprio sul fronte dell'export. Mi sembra di capire che su questo fronte c'è un po' più di pessimismo. Ma in realtà noi teniamo conto anche della buona dinamica dell'export italiano. Questo per noi è il vero veicolo di ripresa. Se guardiamo le nostre stime, diciamo che le nostre esportazioni aumentano quest'anno di un 7%, l'anno prossimo di un 5, l'anno successivo un 5,2, però le esportazioni mondiali, se guardiamo il commercio mondiale, questo è più 16%, l'anno prossimo farà circa un 7%, quello dopo un altro 7,4. Il fatto è che quello che crescono sono soprattutto i mercati dell'est asiatico, dove noi siamo meno presenti, per esempio dei tedeschi. Inoltre i consumi interni non vanno tanto bene da noi, 1,07 quest'anno, 0,9 l'anno prossimo, 1,2, guardate, con un aumento del reddito disponibile che sarà molto più basso di questo, quindi comunque implica un aumento di propensione alla spesa delle famiglie italiane. Non andranno male anche gli investimenti, soprattutto in macchinari e attrezzature. In questo contesto però il numero che viene fuori rimane 1,1 e 1,3. Non cambia, avremo bisogno di molto di più in termini di crescita delle esportazioni, di crescita degli investimenti, dell'occupazione e quindi dei consumi. Questo aggancio alla ripresa mondiale c'è, ma è più timido che in altre nazioni. Se guardiamo la crescita in volume delle nostre esportazioni, è esattamente il trend che osserviamo nella produzione industriale, né più né meno. E quindi diciamo ancora un po' basso, un po' deludente. Sì, tra l'altro nel vostro rapporto voi dite espressamente per la crescita, allora l'obiettivo è questa famosa crescita del 2% l'anno, che in realtà non è irraggiungibile, si è detto molte volte, anche se al momento per molti nel paese sembra una chimera. Per cogliere questo obiettivo gli strumenti messi in campo appaiono insufficienti, scrivete voi. Che cosa intendete? Intendete dal punto di vista degli strumenti governativi, diciamo così, o legislativi, o anche, insomma, ci vuole che le aziende si muovano più intensamente, ecco, soprattutto sul fronte di quei mercati esteri dei quali si parlava prima, per esempio la Cina e in genere l'Asia. Ma Confindustria ha sempre promosso, invitato, esortato le imprese associate a internazionalizzarsi di più, a crescere dimensionalmente, a attrezzarsi con politiche di marchio e commerciali più intense, a investire in innovazione e quindi migliorare la qualità dei prodotti, i processi produttivi. In questo rapporto insistiamo molto sulla Information Communication Technology, sulla rivoluzione che questo comporta in tutta la vita aziendale, sul fatto che queste nuove tecnologie sono cruciali per continuare a essere competitive nei prossimi anni. Detto questo, occorre, diciamo, che l'innovazione diventi un fattore trainante di tutta la società e di tutta l'economia italiana, non solo delle imprese di Confindustria. E questo comporta però migliorare enormemente le infrastrutture, potenziare il merito nella scuola e nell'università, investire di più in ricerca, liberalizzare creando quindi maggiore concorrenza nei servizi, tutte cose su cui Confindustria batte da tempo il chiodo, come si suol dire, e su cui ancora i tempi di risposta non sembrano adatti. Non c'è una reazione sufficientemente pronta, non che non si faccia nulla, riforme ne vengono fatte, è molto importante quella dell'università in corso di approvazione, tuttavia se guardiamo alla velocità con cui le riforme vengono fatte negli altri paesi, noi rimaniamo indietro. E quello che conta per la competitività del paese è la differenza di velocità, di tempi di risposta, anche nel cambiare regole del gioco e adattarle a quello che è il nuovo contesto globale. Certo, soprattutto poi se andiamo a guardare come elemento di paragone la Germania. Allora, un'ultima domanda. Allora, tra gli altri dati che avete diffuso c'è quello sul numero di occupati in Italia che stimate in diminuito di 540.000 unità tra il primo trimestre 2008 e il terzo trimestre del 2010 e stimate un nuovo calo degli occupati dello 0,4% nel 2011, che è un altro dato piuttosto pesante, Paolazzi. Ma di 540.000 in meno non è una stima nostra, è un dato Istat, quindi lo recepiamo. La previsione di un meno 0,4% degli occupati contrasta con un calo molto più contenuto, 0,1% dell'unità di lavoro. Questo perché nell'unità di lavoro c'è il riassorbimento di parte della cassa integrazione, mentre constatiamo che ci sono ancora molte sofferenza in tante imprese, in tanti settori con attività produttive. Nel terzo trimestre di quest'anno era tra il 30 e il 40% inferiore ai livelli pre-crisi. E quindi sicuramente ci saranno ristrutturazioni e riduzioni occupazionali. Parliamo in cifre assolute tra quarto trimestre di quest'anno e quarto trimestre dell'anno prossimo di qualcosa come 70.000 occupati in meno, poi diciamo nello stesso periodo, cioè quarto trimestre del 2012, circa 114.000 occupati in più, persone occupate in più, quindi c'è anche lì un ritorno, un aumento dell'occupazione, però più graduale di quello che succedeva prima. Perché poi alla fine se non si cresce è inutile sperare che si assuma, no? Naturalmente. Sì, soprattutto perché siamo appunto su livelli di attività molto molto bassi, la perdita del PIL che c'è stata, 6,8 punti percentuali tra massimo e minimo, finora abbiamo recuperati 1,5, quindi resta tanto da riprendere, e se continuiamo a risalire la china con il ritmo che abbiamo osservato nei passati trimestri non ritoccheremo i livelli pre-crisi se non nel primo trimestre del 2015, quindi è difficile immaginare un rilancio dell'occupazione tanto rapido. Grazie dunque a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, per essere stato con noi, buonasera. Buonasera a tutti. Rimaniamo dunque sul rapporto del Centro Studi di Confindustria. Abbiamo sentito quello che ci ha detto poco fa il direttore del Centro Studi, Luca Paolazzi. Sentiamo invece quali sono le parole della Presidente degli Industriali, Emma Marcegaglia, al microfono di Teresa Trillò di Radio Cor Il Sole 24 Ore. Ma emerge appunto che l'Italia continua a crescere troppo poco, abbiamo rivisto a ribasso la crescita del 2010 dall'1,2 all'1, ma anche l'abbiamo rivista a ribasso anche per il 2011 dall'1,3 all'1,1, quindi al di là degli 0, si conferma purtroppo una crescita troppo bassa per l'Italia, siamo sotto non solo la Germania che quest'anno cresce al 3,4%, ma siamo sotto la media europea all'1,5, all'1,7, questo è un problema serio, è un problema per il tasso di disoccupazione disoccupazione che secondo le nostre stime rimane alto all'8,9% fino al 2012, rimane un problema per le imprese che hanno problemi di redditività e di competitività, quindi come diciamo ormai da molto tempo il Paese deve ritornare a crescere, ci vuole una grande concentrazione sulla crescita, il nostro tema è che in passato, negli ultimi 15 anni, 20 anni, non si sono fatte le riforme per dare più spazio al mercato, per investire in ricerca, in scuola, non si è investito in infrastrutture, tutte queste cose bisogna farle velocemente, altrimenti il Paese rimarrà troppo indietro nella crescita e questo è il vero male del Paese che viene da lontano. È un paese che cresce troppo poco e quindi la crescita è per noi la cosa più importante. Abbiamo tenuto nel rigore dei conti pubblici durante questa crisi, ma questo non basta, dobbiamo tornare a crescere. Dobbiamo crescere almeno a un 2% di tasso, oggi siamo all'1%, ripeto, senza il quale è veramente difficile creare occupazione, dare spazio alle imprese, far aumentare i consumi interni, diffondere benessere. Quindi io credo che ci voglia veramente una grande concentrazione su questo tema, perché altrimenti il paese continuerà ad andare indietro nella sua capacità appunto di crescere e di creare posti di lavoro. Così invece la presidente degli industriali, sempre al microfono di Teresa Trillò, sulle stime sul mercato del lavoro. Ma le previsioni del Centro Studi parlano ancora per il 2011 di un tasso all'8,9%, un miglioramento un po' avverrà solo a partire dal 2012, quindi anche da questo punto di vista il problema rimane, siamo un po' più bassi della media europea, però rimaniamo comunque a un tasso di disoccupazione molto alto, che è un problema appunto anche dal punto di vista sociale. È tornata a ribadire Emma Marcegaglia che non fare le riforme è un serio rischio per il Paese e che bisogna trovare una maggioranza per superare l'incertezza politica. Poi la Presidente degli Industriali si è soffermata sul tema di Fiat e sui rapporti anche tra Confindustria e Fiat. Ascoltiamola. Mi aspetto, come dire, da una parte, e che è un po' uscito anche ieri, ma insomma vedremo oggi, da una parte una conferma che Confindustria è a fianco di Fiat e di tutte le altre imprese che vogliono investire in questo paese, vogliono appunto creare posti di lavoro, dall'altra però la nostra idea è che dobbiamo farlo senza, come dire, innescare un meccanismo di conflitto sociale, che certamente non è quello che serve il paese, però ecco, magari sarò più precisa dopo la riunione perché devo sentire un po' tutte le nostre rappresentanze interne. Così Emma Marcegaglia che dice dunque al fianco di Fiat e di tutte le altre imprese che vogliono investire e creare posti di lavoro. Tra l'altro interviene il ministro del welfare Maurizio Sacconi su entrambi i temi, perché dice l'accordo sulla vertenza a Mirafiori potrebbe arrivare entro pochi giorni, si dice fiducioso, e poi invece sulle previsioni del Centro Studi di Confindustria: sono esercizi che durano un giorno, non credo che valga la pena commentare. No comment invece dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. È il momento della borsa. Allora, la giornata di mercato è stata alla fine negativa praticamente solo a Piazza Affari. Il FTSE MIB ha lasciato sul terreno lo 0,21%, il FTSE Share lo 0,18%, tutto il resto d'Europa è stato complessivamente positivo, Parigi in guadagno dello 0,21%, Francoforte dello 0,11%, per quanto riguarda Londra invece siamo su un guadagno frazionale dello 0,09%, negativa invece dall'altra parte la borsa belga, meno 0,30%, ve l'abbiamo detto poco fa, sono arrivate delle rassicurazioni da parte del Premier Yves Leterme sul fatto che il Belgio non avrà bisogno di aiuti finanziari, ma insomma qualche preoccupazione per quanto riguarda Bruxelles e nella fattispecie non intesa come sede della Commissione Europea, bensì come capitale belga, insomma qualche preoccupazione naturalmente si addensa. In questo quadro generale c'è l'euro che in questi minuti, in questi ultimi minuti si sta rafforzando, è a 1,3211 contro dollaro. Per quanto riguarda invece al nostro affezionato ascoltatore che ce lo chiede più o meno quotidianamente, il franco è sostanzialmente immobile a 1,27 e 8. Venendo ai singoli titoli, o più in generale ai settori, oggi in generale c'è qualche sofferenza da parte delle banche, non in senso tecnico ma in senso di mercato naturalmente. Mediobanca giù del 2,63%, la Popolare di Milano del 2,5%, pesano naturalmente tutte le questioni europee, e non solo, ci sono anche quelle proiezioni che vi abbiamo fornito poco fa, fatte dalla Banca d'Italia, e che riguardano il possibile impatto di Basilea 3 nel caso entrasse immediatamente in vigore, mentre invece, come si sa, l'applicazione di Basilea 3 sarà diluita tra il 2013 e il 2018. Basilea 3 che impone criteri patrimoniali più stringenti alle banche. Come si diceva, c'è questo e c'è la questione europea, i problemi del debito europei, e dunque giù le banche. UbiBanca dell'1,89, il Monte dei Paschi dell'1,85%, UniCredit dello 0,86%. Questo il quadro per quanto riguarda il settore. Giornata di borsa oggi ancora molto negativa, Fondiaria SAI un calo del 4,77% e giù Unipol del 3,5%. Si diceva però, e quindi insomma male fa un po' tutto il settore assicurativo, poi ognuno per i suoi motivi singoli, e però si diceva di Generali. Generali, il calo è stato del 2%. Che cosa è successo? È successo che alcune indiscrezioni di alcuni quotidiani hanno indicato il possibile utile netto a fine del 2010 ad 1,6 miliardi di euro, mentre gli analisti si attendevano un utile ad 1,8 miliardi di euro. Oggi è arrivata la precisazione di Generali, che però ha detto che in sostanza ha parlato solamente del risultato operativo, che si posizionerà nella parte alta del range compreso tra 3,6 e 4,2 miliardi di euro, e però ha detto sull'utile netto non è possibile fare una previsione in quanto dipenderà dall'andamento dei mercati azionari a fine anno. Su questo fronte tra l'altro c'è stato anche qualche intervento di qualche analista di singole banche, come per esempio Deutsche Bank, che ha confermato, diciamo, questo certo grado di incertezza. Come si sa, ai mercati se c'è una cosa che non piace è l'incertezza. Tra i titoli positivi troviamo Bulgari, che in assoluto è il migliore del listino, più 1,60%, Luxottica più 1,47%. Oggi complessivamente va bene un pochino tutto il lusso. Bene Tenaris più 1,38, bene Campari più 1,38 e Saipem più 1,14%. Che cosa è successo invece per quanto riguarda Saipem? Che si è aggiudicata dei nuovi contratti offshore del valore di circa 700 milioni di dollari. Si tratta di nuovi contratti acquisiti per attività da svolgersi tra il 2011 e il 2014 nel Golfo del Messico, in Kazakistan, poi ci sono lavori nel mare del nord, in Azerbaijan, e poi incrementi dello scopo del lavoro su contratti offshore esistenti. Bene anche Snam Rete Gas, un guadagno dello 0,99%, Autogrill dello 0,87%, Mediaset un guadagno dello 0,60%. Come sapete, in questi giorni sta reagendo bene all'assestarsi della situazione politica. Atlantia più 0,59%, Pirelli più 0,57%, Exor guadagno di 0,5%, Eni più 0,37%, Terna più 0,31%. Complessivamente mi sembra gli energetici siano andati abbastanza bene. Anche A2A guadagna lo 0,10% ed è nello 0,7%. Tra i titoli in negativo, in pregilo dello 0,12%, Parmalat dello 0,31%, ST Microelectronics dello 0,33%, Prismian dello 0,39%, Telecom Italia di 0,5%, Finmeccanica dello 0,6%, così come Fiat, Ansaldo dello 0,67%, Lottomatica dello 0,69%, Mediolanum dello 0,70%, e poi i titoli bancari di cui vi abbiamo detto. L'unica altra segnalazione che abbiamo da fare riguarda questo più 0,56% di Exor che beneficia di UBS, che ha reiterato la raccomandazione buy, ossia comprare sul titolo, tra l'altro alzando il target price, ossia il prezzo obiettivo, da 25,6 a 28,5 euro. Questo è il quadro della giornata di borsa. Noi veniamo invece al mercato dei titoli di Stato. Ci fate notare naturalmente in modo peraltro piuttosto colorito, e quindi non riferiamo fino in fondo, della vicenda dei graniti Fiandre. È stata lanciata un'OPA per il delisting, oggi ha guadagnato il 49,95%. Il riferimento del nostro ascoltatore è al fatto, però su questo insomma ci fidiamo della sua parola, andremo a riverificare, che l'IPO di graniti Fiandre avvenne ad 8 euro per azione, adesso quota intorno, ultimo prezzo 3,925, perché il prezzo dell'OPA è a 4 euro. E veniamo appunto alla questione del debito pubblico europeo, e nella fattispecie oggi ci occupiamo del mercato dei titoli di Stato europei. Ancora oggi problemi, perché se ieri il Portogallo aveva venduto 500 milioni di bond con un rendimento del 3,403% contro l'1,818 dell'ultima asta su questa scadenza, praticamente il raddoppio, le cose non sono andate bene nemmeno per la Spagna. La voce che avete sentito tossire di sottofondo è di Moria Longo del Sole 24 Ore. Buonasera Moria. Buonasera a tutti. Allora, un'altra giornata difficile per la Spagna. Sì, difficile perché la Spagna, questa era l'ultima asta di titoli di Stato, quindi l'ultimo collocamento di titoli di Stato del 2010. La Spagna solitamente colloca 4 miliardi, ha come obiettivo di collocare 4 miliardi sul mercato. Questa volta aveva abbassato già il suo obiettivo tra i 2 e i 3 miliardi. Alla fine ha collocato titoli di Stato per 2,4 miliardi, quindi diciamo nella parte bassa del già abbassato obiettivo. E questo già non è molto promettente. Ma il vero problema che balza veramente all'occhio il rialzo fortissimo dei rendimenti. Rispetto all'ultima asta di un mese fa, il rendimento dei titoli decennali spagnoli è passato dal 4,6% al 5,4%, quasi di un punto percentuale è salito. Si tenga conto che un Bund, cioè un titolo di Stato tedesco, rende il 3%, quindi la Spagna paga 2,5% in più rispetto al titolo di Stato tedeschi. E questo è un problema per i mercati, perché la Spagna l'anno prossimo, calcola per esempio Moody's, dovrà emettere titoli di Stato, titoli di enti locali o anche titoli di banche per un totale di 290 miliardi. Per cui se ogni volta che ad ogni asta il mercato chiede rendimenti sempre più alti, a un certo punto si crea un problema proprio di rifinanziamento della Spagna. Sì, tra l'altro probabilmente rendimenti che saliranno ancora, perché insomma se non riesci nemmeno a vendere tutto... No, poi quelli che hanno collocato li hanno venduti tutti, anzi poi la domanda era anche superiore all'offerta, però è che loro hanno abbassato l'obiettivo, per cui già sapevano evidentemente che l'asta non aveva molto, molto appeal, aveva un po' di problemi, anche perché ricordiamo proprio ieri Moody's ha messo il rating della Spagna, che attualmente è ancora doppio a 1, quindi un gradino sotto il massimo rating che è la AAA, l'ha messo in osservazione per un possibile declassamento. Questo ovviamente ha penalizzato l'asta di oggi, quindi diciamo c'è anche un motivo contingente che può aver pesato su questa asta. Sì, questo naturalmente. Tra l'altro, giusto per darvi un'idea, no? In quella ultima asta della quale ci parlava Moria Longo, quella che si è tenuta lo scorso 18 novembre, allora la domanda superò l'offerta di 1,67 volte, la volta precedente ancora di 1,84 addirittura. Comunque, invece sulla scadenza 2015, con un rendimento medio che è salito ancora di più, se non sbaglio, Moria? Sì. A questo momento non ho qua, forse il 15 ne è un punto al 5,95%. Sì, sì, punto e 4 addirittura, un 1,4%. La domanda superò l'offerta di 2,5 volte. Devo dire che insomma sembra che nel mirino ci siano loro adesso, almeno. Sì, nel mirino ci sono loro, non da oggi. Il mercato teme da tempo che la Spagna possa avere problemi, perché se l'Irlanda e la Grecia sono facili da salvare perché sono stati piccoli, piccoli, la Spagna non è piccola, per cui un eventuale salvataggio della Spagna costerebbe, sarebbe molto problematico, sarebbe veramente, diciamo, un pesce grosso da salvare, per cui il mercato la guarda con timore. E quello che balza agli occhi è proprio questo continuo rialzo dei rendimenti. Consideriamo che non c'è inflazione, che la Banca Centrale Europea non sta alzando i tassi di interesse, quindi è tutto un problema puramente di rischio paese, e se il mercato ogni volta chiede rendimenti più alti, a un certo punto diventa insostenibile per uno Stato rifinanziarsi. Tant'è vero che anche questa volta ha dovuto chiedere meno soldi di quelli che avrebbe chiesto se la situazione fosse stata normale, quindi a un certo punto i rischi aumentano. Una precisazione doverosa, vi abbiamo parlato dell'annuncio da parte del commissario europeo Barnier di un'apertura di un'indagine sui conti correnti in Europa. Stima l'Europa che un conto corrente italiano medio costi 246 euro all'anno contro i circa 40 di un olandese. Replica l'Associazione Bancaria Italiana, parla di un costo di 114 euro in linea con l'Europa e le elaborazioni dell'ABI riferibili a diversi profili di utilizzo, scrive l'Associazione Bancaria, evidenziano una media di 116 euro. Altra notizia dell'ultima ora, il CDA di Telecom non metterà all'ordine del giorno della prossima assemblea l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della passata gestione. Dunque noi torniamo a parlare di debiti pubblici, lo avete sentito nel giornale radio poco fa. Moody's ha messo sotto osservazione il rating della Grecia, così come peraltro aveva fatto ieri con la Spagna. C'è da dire che rispetto alla Spagna la Grecia non tornerà sul mercato per un lungo periodo di tempo, relativamente lungo, ma pur sempre un lungo periodo di tempo. Si diceva però che i rendimenti delle obbligazioni di Stato non stanno salendo solamente nei cosiddetti paesi a rischio, salgono anche se più lentamente, come ovvio, anche in un paese come la Germania, senza considerare gli Stati Uniti, Moria Longo. Sì, certo, anche se però stanno salendo per motivazioni diverse. In Germania stanno salendo perché nel momento più acuto della crisi dell'Irlanda, della Grecia, erano scesi tantissimo, hanno toccato i minimi storici, oltre un tot i rendimenti non possono scendere perché ovviamente nessuno comprerebbe più titoli di Stato per quanto sicuri siano. Per cui c'è stato ovviamente un normale rimbalzo, adesso i titoli di Stato tedeschi a 10 anni rendono intorno al 3%. Mentre invece in altri paesi come la Spagna, appunto, di cui abbiamo parlato prima, ma anche l'Irlanda e il Portogallo, i rendimenti sono saliti per una rischiosità proprio del paese, quindi per una, diciamo, una sorta di paura degli investitori. Gli rendimenti stanno salendo anche negli Stati Uniti, e lì secondo me c'è una motivazione più logica, più congiunturale, diciamo. Gli Stati Uniti, sebbene il dollaro sia la valuta di riserva del mondo, sebbene abbiano grandissima flessibilità, abbiano grandissime risorse, però gli Stati Uniti hanno una crisi molto forte, stanno vivendo una crisi molto forte, non solo a livello di Stato federale. Il rapporto tra debito e PIL negli Stati Uniti a livello federale è intorno al 100% quest'anno, quindi non siamo molto distanti dall'Italia. Sì, tutto ciò senza contare naturalmente i debiti privati. I debiti privati sono altissimi, addirittura le famiglie americane hanno un debito che è pari al 120% del loro stesso reddito, quindi hanno più soldi da pagare che quelli che guadagnano. Ma il problema sta negli stati, ci sono stati come la California, come l'Illinois, che tecnicamente sarebbero in bancarotta se non avessero l'aiuto federale. Il problema è che l'aiuto federale è sempre più risicato, perché lo Stato federale, anche quello, inizia a soffrire, per cui c'è un vero problema a livello di Stati Uniti, a livello anche di singoli Stati degli Stati Uniti, tant'è vero che il Sole 24 Ore qualche settimana fa ha coniato un nomignolo per rispondere ai PIGS, come sono stati definiti il Portogallo, Irlanda, Spagna e Grecia, che in inglese PIGS vuol dire naturalmente maiali. Abbiamo inventato questo nomignolo per gli Stati americani in crisi, che sarebbe CANI, cioè California, Alabama, New York e Illinois, che sono tra gli stati più in crisi, ma ce ne sono tantissimi altri, per cui gli Stati Uniti i rendimenti salgono, meno male, perché lì la situazione è difficile. Allora, l'anno prossimo, secondo dati che verranno pubblicati dall'Economist domani, insomma, che cita un istituto internazionale, l'America sarà sul mercato nel 2011 per, e adesso vi citiamo quelle cifre incomprensibili, 4.000 miliardi di dollari, e l'Europa per 3.000 miliardi di dollari. Allora, questo trend di rialzo dei rendimenti, secondo te, Moria, brevemente ti chiedo, è destinato a proseguire? Sì, io credo di sì, renderli diciamo più umani, anche perché appunto i rendimenti dei titoli tedeschi e quelli americani erano troppo bassi. E il problema è vedere se nel lungo termine diventa sostenibile, perché per ora stanno salendo ma poco. Il problema è se un giorno risalirà l'inflazione e magari saliranno anche i tassi ufficiali, quello della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea. A quel punto debiti giganti, come per esempio quello americano, diventano pesanti, diciamo, non insostenibili, perché gli Stati Uniti possono stampare tutti i dollari che vogliono, per cui non c'è un problema di insolvenza. A differenza nostra. Però c'è un problema poi di crescita economica, c'è un problema di economia generale, perché a un certo punto dovranno alzare le tasse o ridurre la spesa, non si scappa, cioè non è che si può stampare moneta per eterno. Che è esattamente il problema che abbiamo noi e che hanno i paesi europei. Esattamente. Parliamo dunque di abusivismo. Oggi a Roma è stata presentata un'indagine del CRESME, il Centro Ricerche Economiche e Sociali di Mercato per l'Edilizia e il Territorio, dalla quale emergono dati interessanti. La questione ha anche carattere economico. Da fine 2011 scade questa sorta di microsanatoria delle cosiddette case fantasma, che dovrebbe portare nelle casse dell'erario, secondo alcune stime, circa 1 miliardo di euro. Facciamo il punto sulla situazione, perché questa sanatoria riguarda le case fantasma, ma non riguarda tutto il resto dei piccoli abusi, per esempio un gazebo che si crea al lato della casa. I dati presentati oggi sono molto significativi anche su questo fronte. Saluto Lorenzo Bellicini, direttore del CRESME Ricerche. Buonasera. Buonasera. E saluto anche Luciano Ciocchetti, che è assessore regionale all'urbanistica e vicepresidente della Regione Lazio. Buonasera Ciocchetti. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, prima di andare alla questione specifica del Lazio, che è particolarmente interessante perché il calcolo è di una media di circa 6,3 abusi al giorno, maglia nera il Lazio assieme a Campania e Calabria, vorrei fare un quadro generale insieme a Bellicini. Ci dia qualche numero a livello nazionale per capire la dimensione del fenomeno innanzitutto, e ci aiuti a capire se il fenomeno è ancora in corso o se è legato al boom edilizio degli anni 2000 e quindi lo possiamo considerare in esaurimento, anche di fronte, anche a fronte di timori di scoperte, come è stato il monitoraggio delle case fantasma. Bellicini. Allora, innanzitutto voglio dire che quello che abbiamo fatto è stato fatto per e con gli uffici della Regione Lazio. Dal punto di vista più generale, sicuramente il fenomeno dell'abusivismo è un fenomeno che interessa il nostro paese storicamente. Gli anni 2000 sono stati anni di una fortissima crescita demografica e di fortissima produzione edilizia, che ha avuto chiaramente anche degli effetti sulla produzione abusiva. Chiaramente questa produzione abusiva però è una forma complessa di trasformazione del territorio, va dalle nuove costruzioni residenziali a quelle non residenziali, anche di dimensioni rilevanti, ai piccoli interventi e ai piccoli abusi. Chiaramente il fenomeno è un fenomeno che è tornato in qualche modo a crescere, nonostante ci siano state, e va detto questo, politiche di contenimento e di maggiore attenzione di governo del territorio rispetto al passato. Le nostre stime sulla produzione residenziale di abusivismo a livello nazionale parlano comunque di un passaggio tra gli anni 70, dove si producevano 70.000 abitazioni abusive all'anno, a circa 30-35.000 negli anni 2000. Che sono comunque tante, naturalmente. Bellicini, io ho una domanda per lei, perché poi alla fine è quello che si chiedono anche gli ascoltatori, ed è stato il grande tema di questi anni, ossia la questione dei condoni. E poi la domanda la girerò naturalmente anche a Ciocchetti, perché necessita anche di una risposta politica a questa questione. Allora, il fatto che si sia proceduto più o meno sistematicamente in questo paese ai condoni, perché lei diceva, insomma, è chiaro, ci sono maggiori controlli, però se io so che alla fine basta pagare e quella roba torna a posto, torna a regolare, insomma, c'è poco da controllare più rigidamente. Ma è vero che i condoni sono stati, quando sono stati emanati, in qualche modo un incentivo all'attività abusiva. È anche vero che queste case fantasma, se andiamo a vedere bene, penso che comunque un'analisi dettagliata, come in parte è già stata fatta, ma potrà essere fatta con maggiore attenzione sul lavoro che è stato fatto dall'Agenzia del Territorio, mette in evidenza come molte di queste, come dire, case fantasma o edifici fantasma sono diffusi in territori sperduti, hanno a che fare anche con le questioni dell'abbandono e quindi non solo con la questione dell'abusivismo, ma quindi una questione certamente più complessa. Certo, il tema delle regole del territorio è un tema centrale. È evidente che se io ho delle regole chiare e certe e che vengono fatte rispettare, l'abuso è più difficile. c'è anche da dire che ha a che fare con la storia della pianificazione del nostro paese, no? Oggi noi abbiamo come dire, una sicura evoluzione nella strumentazione urbanistica, però abbiamo ancora molti comuni che hanno i piani di fabbricazione, che è paradossale, no? È evidente che la produzione abusiva si regola anche nel confronto con la pianificazione urbanistica. E questo è evidente. Allora, su questo tema, sul tema delle regole, vorrei coinvolgere Ciocchetti, perché è naturalmente, da questo punto di vista, essendo oltre al vicepresidente della regione anche l'assessore regionale all'urbanistica, è un quello che potremmo definire un policy maker su questo fronte. Lei, tra l'altro, Ciocchetti, parla della necessità di nuove regole, ma con la domanda torniamo a bomba: se poi tira aria da condono, alla fine le nuove regole possono essere stringenti quanto ci pare, però no, non funzionano. Sì, intanto io credo che noi dobbiamo fare alcune regole più chiare e più precise. Una parte dell'abusivismo, quello dopo gli anni 70, come rileva la ricerca del CRESME, è ora un abusivismo legato alla necessità. Oggi è un abusivismo di tipo diverso, in molti casi legato a piccole modifiche che potrebbero essere consentite dai regolamenti edilizi all'interno di alcune regole che sono stabilite, in modo da consentire non i condoni, ma di consentire a piccole modifiche di fabbricati e di scatole edilizie già esistenti, che può, come avviene nel nord Europa, dove è possibile fare le modificazioni secondo delle regole e presentando delle proposte di progetto che consentano di poter fare degli interventi che siano compatibili sia con la tenuta vincolistica dell'area e siano compatibili con anche la tenuta architettonica e la qualità progettuale. Che poi era in parte, Ciocchetti, l'obiettivo del almeno parte dell'obiettivo del cosiddetto piano casa, no? Che fine ha fatto? Che noi stiamo lavorando per cercare invece di farlo diventare una cosa realizzabile, nel senso di aprire anche in Italia uno sviluppo dell'idea di edilizia e urbanistica, di riqualificazione del patrimonio esistente, che è una cosa che in Italia non si è mai fatto, perché diciamo che si è preferito continuare ad occupare terreno libero e quindi costruire soltanto su aree agricole o verdi, continuandola ad occupare continuamente. Questa è una questione quindi delle regole che siano più trasparenti, da un lato, di stabilire le cose che si possono fare e le cose che non si possono fare, uscire un po' dalla logica delle deroghe, perché questo è un altro problema italiano, anche della nostra regione, in cui noi abbiamo vincolato quasi tutto il terreno della nostra regione, circa il 67% a vincoli di inedificabilità o di inedificabilità parziale, però poi mettendo in campo una serie di possibilità di deroghe discrezionali, che io credo che sia una cosa assolutamente sbagliata. Noi dobbiamo decidere invece quali sono le aree assolutamente da tutelare, sì, e le altre dobbiamo decidere come invece possono essere trasformate in rapporto alla compatibilità del vincolo esistente. Sì, perché poi le deroghe soprattutto in questi casi, quando sono discrezionali, sono anche, mettiamola così, pericolose, per certi versi attraenti a volte per gli amministratori locali, mettiamola così, mettiamola in maniera leggera. Ecco, tra l'altro, la lotta all'abusivismo in tutta teoria, e torniamo a quello che poi è l'argomento centrale di questa trasmissione, che è dal 2004 al 2009 hanno calcolato il CRESME e la Regione Lazio, appunto, la produzione abusiva, i circa 7.000 abusi l'anno che sono stati fatti dal 2004 al 2009 valgono il 35% della produzione legale, quindi sostanzialmente un terzo della produzione edilizia del Lazio in questi anni, in questi 5 anni, è stata produzione illegale, Bellicini. Beh, no, diciamo che nel 41.000 non ci sono solo, qui viene confrontata sostanzialmente il dato complessivo degli abusi che sono stati rilevati con la produzione residenziale. In realtà, se dovessimo fare i conti bene, potremmo stimare che meno della metà, un 40, un 35% del totale degli abusi rilevati ha a che fare con le nuove costruzioni, sia residenziali che non residenziali. Le residenziali potranno essere un 31-36%. Quindi si riduce sostanzialmente la valutazione del peso sull'edilizia, come dire, di nuova produzione. Sì, il fenomeno è importante, però insomma, dobbiamo definirlo bene. Sì, sì, ha ragione, però restando in tema, insomma, sono comunque quattrini, è comunque denaro che gira per il mondo dell'edilizia e per le casse abbastanza esangui, a dir la verità, delle amministrazioni locali, no? Che è un fenomeno importante, un fenomeno rilevante che ha degli impatti di varia natura, sia di concorrenza della produzione edilizia, sia soprattutto sul fatto degli oneri di urbanizzazione e di costruzione che rappresentano oggi per gli enti locali una delle poche risorse che in qualche modo sono rimaste. Grazie, grazie dunque a Lorenzo Bellicini, direttore del CRESME Ricerche, buonasera. Buonasera, arrivederci. E grazie anche a Luciano Ciocchetti, assessore regionale all'urbanistica e vicepresidente della Regione Lazio. Buonasera Ciocchetti. Buonasera a voi. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Paolo Corleoni in regia. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.